L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo a una scuola, e mi fa molto piacere farlo, sinceramente, perché è una scuola che si sta impegnando sul serio per la formazione dei propri alunni e per la comunità in cui è inserita. La scuola in questione è l'ITIS Magistri Cumacini di Como, un istituto tecnico industriale con 4 indirizzi di specializzazione: costruzioni, meccanica, elettrotecnica e informatica. Gli alunni dell'ultimo anno di questi indirizzi sono stati coinvolti nel progetto Greenway per il riutilizzo e la riqualificazione di un'area verde lungo una ferrovia dismessa. Un'idea su cui stava già lavorando un'associazione locale che ha quindi deciso di unire le forze e le competenze con la scuola. Non voglio però rubare altro spazio al progetto e alle voci dei protagonisti, che sono davvero tantissimi. Li ho incontrati nella scuola e sentiamo per prima Lorella Lauritano, l'insegnante di lettere che è stata un po' l'anima di questo progetto. I nostri ragazzi oggi sono preparati affinché siano attenti a quelle che sono le esigenze e le sfide che la società contemporanea offre e lancia quasi quotidianamente. E anche per questo i nostri ragazzi vengono invitati a partecipare a stage e al progetto di alternanza scuola-mondo del lavoro presso aziende del territorio, e in futuro speriamo anche di riuscire con il progetto Erasmus a lavorare in questo senso con l'Europa, proprio perché è fondamentale che la scuola stia al passo coi tempi, e i nostri programmi è bene che vengano aggiornati per rispondere alle nuove tecnologie. I nostri ragazzi devono uscire dal nostro istituto con queste competenze, questo è ciò che ci sta a cuore. Le parole d'ordine sono quindi creatività sicuramente, ma innovazione, ma anche rispetto delle tradizioni, sostenibilità, ecocompatibilità, e soprattutto quando progettano creano moduli che possano essere ripetibili e spendibili in altri contesti territoriali. Sono Giorgio Costanzo dell'associazione Jubilantes, che è una ONLUS, un'organizzazione di volontariato culturale che da ormai 20 anni si occupa di vie storiche, di vie di pellegrinaggio, di percorsi di viabilità dolce, di mobilità, sostanzialmente con il concetto di consentire ai cittadini di potersi muovere nel territorio secondo le modalità che loro ritengono più opportune, nel nostro caso quella della mobilità a piedi o in bicicletta. Nel nostro territorio, in modo particolare, noi sono ormai più di 10 anni che in questo caso qui ci siamo occupati di resuscitare, nel senso di mettere in evidenza un bel percorso che attraversa appunto queste nostre zone, che è una vecchia ferrovia dismessa, dismessa ormai da tanto tempo, negli anni 60, che è la ex ferrovia che da Grandate portava a Malnate. È l'occasione di venire a collaborare quest'anno con l'ITIS della Magistri qui di Como, e con gli edili in modo particolare, vista anche la mia deformazione professionale, mi sono trovato abbastanza, come dire, attiente, no? Mi ha fatto molto piacere, perché questo è l'elemento importante: riuscire a collaborare e a trasmettere un po' questo nostro entusiasmo, che magari può sembrare vetero, però se non altro stiamo trasmettendo un nostro patrimonio che ci è arrivato da qualche anno, da qualche decennio precedente, di trasmetterlo ai giovani. E quindi ho trovato molto efficace, molto interessante queste un paio di cose che sono state fatte molto importanti. Innanzitutto di andare a individuare, confermando quello che è la regione, anche con il nostro lavoro molto pedante di noi come associazione, per cui questi 16 chilometri sono stati inseriti nel piano regionale della mobilità ciclistica, quindi uno strumento urbanistico assolutamente imprescindibile nella programmazione territoriale, che questi 16 chilometri loro l'hanno attraversato, hanno individuato, anche su nostre indicazioni e collaborazione con gli insegnanti, delle emergenze architettoniche, infatti dei vecchi caselli più o meno abbandonati, qualcuno adoperato, qualcuno no, e quindi il discorso della reinterpretazione, chiaramente, come diceva prima la professoressa Lauritano, in chiave assolutamente nuova della sostenibilità, propositiva, di materiali, di ricerca, eccetera, eccetera, che è esattamente quello che deve essere perché un patrimonio che comunque c'è ed esiste possa andare avanti per essere continuamente adoperato. Paolo Della Bosca, insegnante di ambiente e territorio nel corso di edilizia. Allora, noi abbiamo conosciuto il gruppo Jubilantis già negli anni 2005 con la professoressa Sibiglia, che era una delle componenti di questo gruppo, era la nostra ex insegnante. Con loro abbiamo fatto già in quegli anni lo studio della ferrovia Como-Malnate e avevamo già fatto il rilievo della stazione ferroviaria di Lurate Cacivio e di Olgiate. Quest'anno invece si presenta quest'altra occasione di sviluppare le tematiche sul recupero di altri elementi costituenti la ferrovia. Oggi manca, diciamo, la professoressa Orefice, che era una delle professoresse che si è occupata proprio dalla parte di diciamo energia, praticamente come rappresentare le varie fonti di energie rinnovabili attraverso questi caselli, cioè in ogni casello ci deve essere una tipologia di recupero di energia rinnovabile. E quindi il nostro studio è proprio partito, oltre che da quanto si diceva prima, anche di rappresentazione di queste tipologie di energie rinnovabili, quindi dare degli spazi, perché se le vedi tutti gli studi che abbiamo fatto, c'è lo spazio per diciamo la centrale termica, e questa centrale termica ognuna è diversa dall'altra. Nel contempo però si è anche studiato il discorso di recuperare questi manufatti, come la biglietteria di Olgiate Comasco, che è dismessa, oppure il casello di Villa Guardia, e su queste due entità reali abbiamo fatto tutto lo studio del nostro corso. Quindi abbiamo fatto rilievo con un... bisogna anche diciamo segnalare che hanno collaborato a questo lavoro altri insegnanti, per esempio del biennio, professoressa Redaelle, professoressa Cimignolo, che erano del biennio, sono venuti anche durante le vacanze di Natale con noi a fare questi progetti, e il gruppo di edilizia, che tutto si è dato da fare per poter arrivare alla soluzione, insegnanti di topografia e assistenti tecnici, tutti hanno collaborato. E quindi siamo arrivati a fare la progettazione che avete visto sui pannelli e che si vede nei filmati. Il gruppo ha lavorato tantissimo e devo essere contento, perché abbiamo poi trovato delle soluzioni che sono, secondo me, inserite correttamente nell'ambiente, senza andare a deturpare altri spazi e nel contempo valorizzare il patrimonio esistente. E poi i ragazzi possono essere più precisi nella descrizione di ogni singolo intervento. Se, allora io comando in ordine, così non è che dovete scegliere il portavoce, cioè il primo. Allora, tu ti chiami? Mauro Colombo. Quanti caselli erano? Erano due caselli, uno Olgiate e uno Villa Guardia, e mi sono occupato di quello di Olgiate. E che cosa hai dovuto progettare su quello di Olgiate? Io ho fatto un inquadramento territoriale, ovvero visualizzare, trovare, localizzare il casello sulle mappe, partendo, ovviamente mappe in scala, partendo prima dall'Italia, poi sempre via via riducendo fino ad arrivare a visualizzare soltanto Largo Europa, cioè il luogo che si affaccia sul casello di Olgiate. E ho fatto anche le viste tridimensionali. E senti, questa modalità di lavoro su qualcosa di reale ti è piaciuta? Su qualcosa che sperabilmente un giorno magari si farà? Sì, perché comunque è qualcosa di concreto e tangibile, piuttosto che rimanere, non me ne voglia professore, tutto il tempo in classe a fare a studiare teoria. Anche mettere in pratica questa teoria è comunque da soddisfazione, perché dà la possibilità di vedere che tutto quello che si studia ha una tangibile realtà. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio, stiamo parlando di un progetto denominato Greenway, elaborato da una scuola di Como, l'Istituto Tecnico Magistri Cumacini, dove si è studiato come recuperare e riqualificare una ferrovia dismessa della zona. Un'occasione di studio gradevole e pratica, perché si sono ad esempio studiate, come abbiamo sentito poco fa, le possibilità di ristrutturare le stazioni di questa ferrovia e se ne sono occupati gli studenti del corso di costruzioni, dotandole ciascuna di impianti energetici a fonti rinnovabili, diversi l'uno dall'altro, in modo da poterne progettare appunto diversi e studiarne l'installazione. Un compito che è stato assolto ovviamente dagli studenti di altri corsi della stessa scuola. Quindi continuiamo con l'ascoltare il racconto di ragazzi e professori. Per quel che riguarda le rinnovabili, lì che cosa era previsto nel vostro era di casello? Era previsto all'esterno una bomba, nel senso di... No, non è, una bomba di calore, nel senso che attraverso dei pannelli solari inserisce il calore in questa specie di caldaia e la trasmette a tutto l'edificio. E io in particolare, come studente Edoardo Bianchi, mi sono occupato della parte di piante e dei prospetti, e prima di iniziare a lavorare su questo edificio ci siamo recati sul territorio per effettuare il rilievo appunto, e in modo tale da poi su CAD trasferire questi dati. Noi siamo di Villa Guardia, abbiamo sempre progettato una serra e il casello. E abbiamo, Mattia Pedrini, abbiamo riprogettato il casello ponendo all'esterno una struttura in modulo ripetibile e una serra con sul soffitto dei pannelli solari per il riutilizzo dell'energia. Boles Gabriele, in particolare ci siamo riuniti su questo progetto, per la realizzazione di questo progetto, ma anche all'interno della scuola, comunque a seguito di altri progetti, ci siamo riuniti, abbiamo parlato, abbiamo discusso, dopo una fase di progettazione, insieme anche con l'aiuto dei professori. Poi dopo parliamo con il professore di informatica di come questo progetto è stato poi presentato, perché ormai comunicare è fondamentale, no? Non basta più solo disegnare quello che vorresti fare. Ti piacerebbe vederlo realizzato veramente? Pensi che questo sia possibile? Io penso che sia possibile la realizzazione di questo progetto, in quanto si basa su dei principi, su dei concetti che in futuro sarebbero giusto utilizzare e prendere spunto, come per esempio fruibilità, innovazione e recupero. Io sono Samuele Andreoli, faccio sempre parte del gruppo di Villa Guardia, e io penso che la realizzazione di questo progetto darebbe non solo un impulso turistico a questa zona, ovvero il nord della Lombardia, ma darebbe anche una maggiore immagine della nostra regione, oltre all'Expo, anche facendo vedere che coinvolgiamo i giovani e facciamo in modo che questi ultimi contribuiscano alla realizzazione di queste opere che da una parte sono anche innovative sul nostro territorio, e promuovere questo tipo di viabilità dolce che in futuro dovrà essere, a mio avviso, sempre più sostenuto e incentivato. Ma tu ci vai in bici? Sì. Tanto o poco? Ci vai la domenica oppure, non so, così per venire a scuola? E al di là degli impegni scolastici ci vado abbastanza, ad esempio in estate, e mi rendo conto che questo territorio è da una parte poco favorevole alla bici, perché è molto, ci sono sali e scendi, ma di piste ciclabili ce ne sono veramente poche, e quindi questo progetto darebbe un grande impulso. E però da un'altra parte, se si fanno delle strade ad esempio sterrate fuori dai centri abitati, sono molto gradevoli, perché il panorama e l'habitat in cui si sta è molto piacevole. Va bene, giriamo di qua. Buongiorno, sono il professor Falconi di informatica. Il nostro lavoro è entrato in gioco, diciamo, a completamento del lavoro realizzato dalle altre specializzazioni. E quindi, come diceva prima l'architetto Costanzo, lo scopo era quello di dare visibilità al progetto. Da questo punto di vista abbiamo dato carta bianca ai nostri ragazzi, loro si sono occupati della realizzazione di un sito, e quindi per fornire visibilità hanno pensato appunto a una serie di servizi che fossero anche largamente visibili a chi consultasse il sito. e appunto riguardo alla ciclabilità, prenotazione delle biciclette oppure anche prenotazione di prodotti agricoli. Si è pensato anche, ad esempio, in futuro una realizzazione di un percorso virtuale. Una volta che i caselli fossero stati realizzati e fosse stata loro assegnata una destinazione, magari riuscire proprio per allargare questa visibilità anche a chi non si reca sul posto, comunque per sollecitare la curiosità, poter anche realizzare da casa un giro virtuale sul... Allora, sentiamo un po' i ragazzi che l'hanno fatto. Voi sapete che avete in mano oggigiorno in pratica la riuscita di qualcosa, cioè se c'è un bel sito che funziona, la gente viene. Tendenzialmente sì. Tu lo sai, che sei consapevole di questa cosa, che è un brutto sito, sì, un brutto servizio. Decisamente blocca il turismo. Blocca il turismo. Come avete cercato di fare qua, proprio per attrarre invece il turismo? Abbiamo dovuto applicare le principali leggi per la visibilità del sito, la sicurezza, la parte grafica affinché potesse essere accessibile a tutte le persone, anche quelle portatrici di handicap, per cui fosse di facile accesso, di facile lettura e comunque gradevole alla vista. Abbiamo puntato molto sul colore verde perché principalmente è legato all'ambiente, quindi alle piante, a tutta la parte ecologica. È ricco di immagini perché comunque deve attirare le persone che lo vedono. La parte di sicurezza forse è stata la parte più difficile perché comunque dovevamo fare un sito che fosse legato agli standard minimi di sicurezza per quanto riguarda password, accessi, amministrazione. Perché c'era per esempio la prenotazione delle bici, esatto, così quindi uno lascia dati personali. Esatto, ci sono dati personali da gestire, password, c'è anche una sessione per l'amministrazione affinché possa essere gestita in automatico da un amministratore e quindi non ci sia sempre bisogno di rivolgersi ai informatici per fare qualsiasi modifica all'interno del sito. Io sono Michele Viesti e frequento l'indirizzo di elettrotecnica ormai l'ultimo anno e in questo progetto, in quanto appunto elettrotecnico, mi sono impegnato nella realizzazione dell'impianto elettrico nei vari caselli che possano offrire di conseguenza energia elettrica per i vari utenti che ne possano accedere, quindi può partire dall'illuminazione, magari poi aggiungere anche con sistemi intelligenti chiamati anche domotici. Chiaramente per rimanere nella tematica dell'energia rinnovabile, tale energia elettrica può essere sviluppata mediante fonti rinnovabili come l'energia solare, mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, la cui energia può essere volta al ricaricare biciclette con pedalata assistita che possono essere messe a disposizione dei turisti e queste biciclette poi poste nelle varie pensiline possono essere ricaricate e riutilizzate. Mentre all'interno delle varie appunto pensiline vengono realizzate delle località, dei luoghi apposta per poter offrire la conoscenza a dei gruppi in visita, quindi con anche volte magari a sensibilizzare i visitatori, specialmente magari anche dai bambini piuttosto che gli anziani, quindi poter trasmettere informazioni legate al territorio. Nome e cognome. Ok, Samuel Alberelli. E ti sei occupato di? Mi sono occupato delle viste tridimensionali, quindi sono subentrato dopo rispetto al lavoro dei miei colleghi edili. Quindi loro ti hanno consegnato il loro pacchetto, sì. E tu l'hai elaborato. Esattamente, con Revit, che è un programma di modellazione 3D e di rendering fotorealistico che applica i materiali al 3D. E grazie a questo sono riusciti a sviluppare appunto il modello 3D e poi creare delle visioni quasi di realtà, quasi reali, con anche l'inquadramento, le luci, le ombre e soprattutto con l'idea degli spazi che si sarebbero andati ad occupare e dell'impatto che l'edificio poteva avere sull'ambiente, perché un conto è vedere il disegno su carta in due dimensioni e un conto è vederlo in tridimensionale, poter girare le viste e poter capire quanto effettivamente incide sull'ambiente circostante. Ti sei per caso reso conto che avevano esagerato in qualcosa nel fare questo lavoro? L'hai visto posizionato là dove dovrebbe essere e gli hai fatto cambiare qualcosa? No, assolutamente no. Sono stati bravi. Professore? Allora, io sono Renato Spina, insegnante di tecnologia dei sistemi elettrici. E sono state dette già tantissime cose, quindi per concretizzare il progetto servono due cose. La prima è quella dello studio di fattibilità, che è volto anche all'acquisizione di tutti questi terreni qui, di questi sedimi che non sono esattamente tutti disponibili, perché molte sono di proprietà della provincia, alcuni sono di proprietà della Trenor, per cui c'è bisogno di capire veramente la messa a disposizione, e qui gioca un ruolo importante l'aspetto politico, perché dal punto di vista progettuale abbiamo visto che si possono realizzare veramente delle cose molto interessanti. Voi mi dicevate prima che per l'appunto con gli enti locali il contatto è già aperto, la strada è già aperta, allora, e come sta andando? Sì, gli enti locali mettono a disposizione mettono a disposizione le planimetrie, mettono a disposizione gli estratti mappa, però l'acquisizione del sedime è un qualcosa che esula proprio, l'ente locale può farsi portavoce, ma la provincia deve rivedere le sue delibere fatte in anni precedenti, dove voleva venderlo questo sedime. Vendere questo sedime vuol dire dare la possibilità di costruire sopra il sedime. È vero che la regione adesso con il progetto nel piano l'ha inserito, però è anche vero che bisogna concretizzarlo. Allora, l'ultima parte, perché questo è un progetto di istituto, diciamo, quindi chi altro è stato coinvolto? Gli insegnanti di diritto. Io vorrei ricordare il ruolo fondamentale che hanno, e qui con noi oggi c'è la professoressa Amelia Guarneri in rappresentanza del team di diritto. Tutti gli indirizzi si muovono ovviamente in base, cioè conoscendo bene la normativa. Dopo tutto questo, non si poteva non fare i complimenti al dirigente scolastico della Magistri Cumacini, che è l'ingegnere Enrico Tedoldi. Un progetto che veramente, poi se si farà o non si farà, questo è un discorso successivo, però sicuramente con qualcosa di concreto, no? Soprattutto proiettato anche in quest'ottica nuova, che appunto è il rispetto dell'ambiente, il risparmio energetico, quindi questo nuovo modo di rapportarsi con il territorio, che forse dovrebbe essere il messaggio più importante che noi dobbiamo lanciare ai giovani, quindi un approccio diverso con l'ambiente in tutte le sue forme, quindi dalla costruzione all'impiantistica, all'inquinamento, all'alimentazione, un discorso a 360 gradi, e questo è proprio il punto, diciamo, di forza di questo tipo di progetto. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie alla scuola Magistri Cumacini di Como che mi ha accolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. We'll be right back.